Ducati di Carlo Genta. Adesso però Keita avvuota ancora Papadopoulos. Keita allora con la velocità, sta in difficoltà. Keita, il destro, parata, parata. Proprio lui, incredibile. Keita fa il close, porta in vantaggio la Lazio, fa esplodere lo stadio olimpico. Lì provo a proteggere la palla lì un po' e vedo se mi tocca un po', penso che mi può fare il rigore e niente. Provo lì a mettere velocità e potenza. Così devono reagire i giocatori. I giocatori devono dimostrare sul campo di meritare di giocare. Keita ha dimostrato sul campo, non a parole ma coi fatti, di essere un giocatore pronto per giocare e per essere impiegato. Il risultato è sicuramente un risultato positivo, ma cambia poco, perché la partita di ritorno sarà come quella di oggi, aperta, difficile, combattuta, e noi dovremo presentarci nelle nostre migliori condizioni possibili e con la voglia di ribattere, come abbiamo provato a fare oggi, pallone su pallone. Ciao a tutti, siamo in diretta come ogni giorno, 800240024, numero verde, Claudio Schiattone, nostra autrice, Giovanni Melchione in redazione. Poi vi parlo anche di un'altra cosa oltre che della Lazio, perché avrete letto da tutte le parti, sentito da tutte le parti questo maxi intrigo pronto sull'asse Napoli Inter, 5 giocatori da una parte, 5 dall'altra, praticamente uno scambio di squadre. Non è vero niente, poi vi spiego perché. Intanto la Lazio, tutti quanti, salvo ovviamente quelli di fede giallorossa, ma come normale e comprensibile da queste parti, vogliono la terza squadra in Champions League e vogliono la Lazio al sorteggio della fase a gironi. Risultato ieri sera dice bene, molto meglio che giocare con il Bassano come aveva fatto un anno fa Stefano Pioli, per sua detta. Marco Cherubini ha raccontato la partita da bordo campo per Mediaset. Ciao Marco. Ciao, un saluto a tutti voi. Incredibile, proprio lui, grande Sandro. eccezionale, abbiamo saccheggiato tutto il suo vocabolario. Marco, vista da bordo, cioè, vista dalla tele mi è sembrata una partita durissima, e vista da bordo campo penso che a tratti fosse qualcosa di simile a Italia-Inghilterra di rugby su quel palcoscenico, no? Stadio Olimpico. Beh sì, insomma, sai, la come si dice in questi casi, la posta in palio era tanta roba e la Lazio comunque un po' in ritardo di condizioni, bisogna ammetterlo, soprattutto rispetto ai tedeschi, e poi insomma, se vogliamo, anche il calcio che ci piace perché è imprevedibile, insomma, Keita doveva essere venduto, non era partito dalla panchina, se non si fa male Close probabilmente forse nemmeno gioca, e poi sbaglia il gol, diventa la condanna epocale, perché sembra veramente la separazione con il mondo Lazio. Poi quando meno te l'aspetti si inventa quella grande cosa. Sì. È da dire che con quei due centrali del Bayer Leverkusen è bello fare gli attaccanti. Sì. Però insomma, ha ragione Klose, che come al solito, insomma, oltre a essere un campione straordinario e il leader di questa squadra, è uno che di calcio ne sa tantissimo, dice calma, perché insomma lì sarà un'altra battaglia. Ma sì, ma questo è certo, però è il risultato perfetto, vai lì sull'1-0, certo. hai comunque 8 giocatori. Anche per l'inerzia, per come è arrivato, no? Cioè, nel senso che sembrava quasi una Lazio in disarmo, perché aveva preso quel gol annullato, stava sulle gambe, è vero, aveva creato due occasioni da gol, però era una partita che in quel momento poteva veramente regalare un gol all'una o all'altra squadra. C'è riuscita la Lazio, bene così. Ma sai cosa ti dico però? Visti gli exit poll del precampionato, la Lazio mi è sembrata addirittura oltre le aspettative sul piano fisico, perché l'avevamo vista veramente male fin qui. Sì, guarda, questa è la riflessione che va fatta anche secondo me un po' più ad ampio respiro di questo calcio business d'estate. Il Barcellona e il Siviglia che vanno a giocare la Supercoppa Europea a Tbilisi, poi tornano e subiscono in situazioni completamente diverse, però due umiliazioni dalla Roma nell'Open Day, nell'amichevole del Siviglia, e il Barcellona a Bilbao, il 4-0 nell'andata della Supercoppa Spagnola. La Lazio è andata a giocare a Shanghai, un viaggio lunghissimo, una situazione delicata nel momento della stagione. Io ho parlato con diversi giocatori, ho parlato con Candreva, mi confermava che insomma è stato uno stress psicofisico importante, e questa settimana di preparazione al preliminare a Formello ha fatto tanto bene, sì, cioè certe volte starsene a casa non è male. Quindi. No, questo è fuori di dubbio. Tornando a Keita, Pioli ha pescato la carta della disperazione dalla panchina, perché fuori Klose... Non c'era un attaccante. A proposito, Klose per quanto ne va? Klose male, nel senso che sta facendo, diciamo così, delle analisi, ma insomma... il muscolo posteriore della coscia sinistra, un muscolo grande, lui ha sentito tirare, ma non ci sono ancora previsioni, però dalla faccia, da quello che ci ha detto anche Off Records, insomma è qualche cosa di importante, si spera in una lesione di primo grado, comunque insomma sarebbe un paio di settimane se non tre, quindi bisogna stare attenti, anche perché poi quando si tratta di muscoli di giocatori non più giovanissimi bisogna avere anche dei recuperi ragionevoli. Poi c'è fuori Djordjevic, adesso tocca a Keita anche in campionato. Esatto, c'è chi dice che giocare un tridente senza una punta centrale è anche meglio. sì. Però insomma è una battuta se non una provocazione. Adesso bisogna, la palla passa all'Otito, all'imprevedibile Lotito, a mercoledì come deadline per stabilire se sarà o meno nella Champions, e quindi significa avere anche 30 milioncini in cassa. Però io credo che già sabato contro il Bologna ci sia una sorta, se vuoi, al debutto in campionato di piccola grande emergenza, perché non dare punti di riferimento in avanti può essere un vantaggio, però non a lungo termine, cioè soprattutto poi se giochi in casa e devi fare la partita, avere qualcuno di peso là davanti che fa la differenza, insomma, per non andare lontano dalla capitale, la Roma ne sa qualche cosa di cosa significa non avere un centravanti di peso, insomma è bastato un mezzo tempo di Dzeko e qui si sono riaperti i cuori, poi, pensando addirittura a cose clamorose. Poi se ce anche ce l'avevi uno bravo che a destra a me continua a piacere, adesso salverà secondo me il Bologna, se ce l'hai poi non lo usi, vabbè, ma questi sono queste sono le incongruenze del gioco del pallone, che appunto. Ma se io ti dico Balotelli, tu cosa mi dici per la Lazio? Che è fattibile, è ancora fattibile. C'è secondo me una implicita, come dire, non lo definirei ostracismo, c'è un po' di perplessità soprattutto da parte della dirigenza, cioè Lotito e Tare, perché insomma il ragazzo non è proprio di facilissima gestione. No. Però è una suggestione forte che ed economica, diciamo, ed economica, perché verrebbe via per poco in questo momento, lo sappiamo bene. No, insomma, lo paga il Liverpool praticamente. Bravo, quindi esatto. C'è un giocatore in affitto. Un giocatore in affitto a prezzi molto ragionevoli. Esatto. Poi, sai, come sempre in questi casi, poi dipende pure dal ragazzo. Finora, diciamo così, da tre anni a questa parte non ne ha azzeccata una. Anche questo, diciamo così, un po' una scommessa, nel senso che poi Roma non è una città proprio facilissima da questo punto di vista per chi si vuole ritrovare. Magari Bologna, Genova hanno delle, no, nella storia del calcio, sì, io penso a Signori, penso a Cassano, nei momenti più oscuri hanno trovato in realtà piccole delle sistemazioni più consone. Sì. La grande città in questo, insomma, sì, non è un po' più tentacolare come sì, beh, poi, ma soprattutto è dispersiva, poi dai, arrivi e devi ambienta. Roma c'è questa cosa, no? Stiamo tutti a braccia concerti perché da 2000 anni ne vediamo tutti e facci ride, cioè, no? Adesso ma facci ride, capito? Alla prima che sbaglia succede l'inferno, quindi non è proprio un palcoscenico di quelli facili. Un'ultima cosa, Marco, diversi giornali, tra cui la Bild, insistono su questi ululati razzisti, Amendele, eccetera, tu da bordo campo. C'è stato un momento, tanto è vero che poi è stato fatto anche l'annuncio all'inizio della partita, quando Vendel è andato sulla fascia sinistra, è caduto, sembrava quasi, non l'ho capita se è stata interpretata come una simulazione, come qualche cosa, sono partiti adesso. Poi lì, sai, c'è sempre il discorso interpretativo, se era fatto per il colore o se era fatto perché era un avversario. Di certo, con la UEFA non si scherza. La Lazio, no, non solo, ma poi la Lazio è molto attenzionata. Ci sono dei precedenti storici, è una di quelle tifoserie che insomma l'organismo calcistico europeo tiene molto d'occhio, e giustamente devo dire, insomma, queste cose vengono sottolineate da chi questi problemi non li vive quotidianamente o li ha vissuti e li ha risolti, perché quello del razzismo sicuramente al di là degli spot resta un problema, non riesco un a problema capire, molto vivo. Ma tanto no. Non riesco a capire, non c'entra. No, non c'è niente da fare, non è. Non che abbassiamo le braccia, però ci limitiamo a constatare la cronaca. A constatare la cronaca, perché ogni volta. C'è anche da dire che nella sua odiosità è anche, diciamo così, una cosa molto ipocrita, perché poi giocatori di colore della Lazio ce ne sono tanti e Keita è stato osannato come il salvatore della patria, per cui poi alla fine non è nemmeno un percorso integralista da davvero razzista, stupido. Sono semplicemente manifestazioni di ordinaria stupidità. Marco, grazie. Grazie mille, Marco Gherolini. Ciao, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo sulla Lazio, allarghiamo il discorso. Abbiamo altri ospiti, abbiamo voi al telefono 800 24 00 24, pure con i messaggi 349 238 6666. A tra poco. Sì, bene, dai, io a essere sincero, sì, con tal di giocare gioco anche di terzino, sceglie lui dopo, ma se devo giocare di prima punta gioco. Tutti convocati. Convocati. Occasione del palo, un po' allungato un po' la palla, e dopo ho sentito un po' il prossimo sprint mi ha fatto male, mi sono fatto male dietro, e adesso vediamo la risonanza, vediamo cosa è successo. Perché insomma tu alla Bayer Arena sei uno che fa gol spesso, quindi c'è bisogno di recuperare, ma pensi che sia una cosa lunga o ce la puoi fare? Non lo so, penso che è grave. Credo che abbiamo delle necessità e credo che l'infortunio di Klose purtroppo amplifichi queste necessità, e quindi credo che, a prescindere dal fatto che purtroppo non possiamo cambiare la lista Champions, quindi saremo questi che andremo a giocare il ritorno con Leverkusen, credo che abbiamo bisogno di un giocatore in più. Sembra tutto molto chiaro, no? Ne abbiamo ora parlato con Marco Cherubini, confermato il fatto che l'infortunio a Klose è serio, l'età del giocatore è quella che è, Djordjevic pure è infortunato, rimane Keita, che è un talento straordinario, molto ondivago. Sono 2 anni che vediamo dei lampi di talento seguiti a dei lunghi periodi di buio, a lunghi periodi di panchina. Intanto oggi è stato, a proposito di acquisti, oggi è stato presentato a Luna, quindi un'oretta fa o qualcosa, Kovacic al Real Madrid. Dichiarazioni epocali e indimenticabili del giocatore: sono nel club più forte del mondo, spero di riuscire a fare bene, darò tutto per questa squadra, insomma cose mai sentite. E poi ce n'è anche un altro di acquisto, perché qui sempre si viaggia sopra i 30, Pedro va al Chelsea per una trentina di milioni. Antonio, provincia di La Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io ho chiamato perché volevo fare una considerazione sempre sul discorso del razzismo, sì, che è successo anche ieri sera, però ho presunto tale. Non dobbiamo più parlarne, perché non è razzismo qui. Perché la Lazio ha un giocatore di colore. Allora, se sono razzisti, lo sono sempre. Lo sono solo nello stadio, quando vogliono dar fastidio a un giocatore avversario, magari di colore. Ma razzismo è una cosa diversa. Questi sono tifosi che utilizzano quello che hanno, sì, per cercare di fare qualcosa. Antonio, vale quanto detto prima, sono manifestazioni di ordinaria e comune stupidità. Quindi questo è evidente. Forse ha ragione lei sul fatto che tendiamo ad amplificare anche troppo questi discorsi, però si fa anche della cronaca, no? E quindi è così. Ma sono d'accordo sul fatto che la gran cassa dei media batte troppo forte forse su questo tasto. Però condivido con il professor Michele Plastino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con tutto. Condivido la riflessione con te, insomma, parliamo di Lazio, parliamo di calcio. Parliamo anche di questi ululati che che sono, ripeto, ne parlavo prima con Marco Cherubini, manifestazioni di ordinaria stupidità che la UEFA sanzionerà. Ma, però io aggiungo una piccola cosa, sono perfettamente d'accordo con te, di ordinaria stupidità di stampo però razzista, perché sai, quando sentivo il signore di prima diceva se il giocatore fa un fallo al suo eccetera eccetera, sì, ma non gli dici la parolaccia, gli fai il bu eccetera, quindi vuol dire che comunque c'è una predisposizione, perché né tu e né probabilmente il signore che ha chiamato prima, se ce la prendiamo con un nero che fa il fallo a un giocatore nostro amico, certo, non gli facciamo bu, magari gli diciamo una parolaccia come lo diciamo al bianco, al giallo, al rosso, al verde, sì, questo è sicuro. Lì è il fatto un po' su cui bisognerebbe approfondire a livello culturale, cioè non ci appartiene adesso nel discorso di un minuto, però è su questo io credo che bisognerebbe battere più che appunto sulla cassa di risonanza per due bu, insomma, sono d'accordo con te da questo punto di vista, purtroppo. Ascolta. Però ci sono, ci convivo nella Lazio da tanti anni, ci convivo, ci lotto, a dire già ci lotto. Sì, sì, ci lotti, lo sappiamo bene. Senti, tutti tranne i romanisti per ovvie ragioni e gli juventini per ragioni di cassa, vogliono e hanno bisogno, parlo di calcio italiano, della Lazio in Champions, da troppo ne mandiamo avanti soltanto due, diciamo che una buona base è stata con grande fatica messa. Sì, è stata una partita strana, sì, che mi è piaciuta, anche a me, dire, anche a me, molto confusa, molto. Anche confusa, se uno va a stringere, forse anche confusa più tecnicamente che tatticamente, perché tatticamente c'era, però poi ogni tanto vedevi delle cose stranissime in campo, però piacevoli, perché un'azione qui, un'azione lì, poteva finire con qualsiasi risultato, e questa è già una nota di merito per quello che riguarda la Lazio, che a mio avviso è tecnicamente inferiore alla squadra tedesca, come proprio tutto il nostro calcio è inferiore a quello tedesco, quindi in proporzione, al di là della Juve che fa un po' storia a sé, se poi vai a pensare alla classifica del Bayern, quella italiana, per me il Bayern è più forte, però la Lazio ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Sono d'accordo. In questa fase sono d'accordo, e visto, ne parlavo prima, visti gli exit poll del precampionato, mi è sembrata addirittura sorprendente a tratti dal punto di vista della tenuta fisica, perché avevo molta paura per questo, per l'approccio della Lazio a questo match così importante, visto appunto precampionato. Continua a essere una squadra che a me piace molto, bella, interessante, giovane ma incompleta, e adesso questo fattore diventa molto più pesante. Klose starà fuori un bel po', Djordjevic è un giocatore che va e viene, che non è stato fuori molto l'anno scorso, Keita, grande talento, vediamo qualche lampo ormai da due stagioni, un altro attaccante serve a prescindere dalla qualificazione. E questo, oltre diciamo a noi che facciamo questo lavoro, era quello che gli dicevano tutti i tifosi, al di là delle solite polemiche con il presidente della Lazio, cioè, però c'era questa spinta nel dire beh vabbè, ogni tanto fai un sacrificio anche prima del preliminare, no? Perché è lo stesso errore che fece De Laurentiis lo scorso anno, no? Sottovalutando, esatto, il preliminare, mettendo questa condizione, anche perché poi se la Lazio ce la farà, perché è una cosa in bilico, prima io ero perfettamente d'accordo con te, nel senso anch'io avevo paura, confidavo un po' in Pioli, guarda è un paradosso, confidavo nella sua inesperienza internazionale, perché ritenevo che appunto lui fosse molto concentrato per far arrivare la squadra a un certo livello di preparazione al preliminare, per non sentirsi dire da noi l'inesperienza, mica come Benitez l'anno scorso, se non passiamo pazienza, ti ricordo. No, Benitez l'anno scorso, ragazzi, io lavoro a Napoli, lavoro moltissimo, cioè per me è incredibile, e fammi dire anche inqualificabile, sì, e poi continua nelle ultime dichiarazioni, io ho vinto due titoli a Napoli, più di questo non di potevo questo fare. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma dove? Beh, magari partito? Ha ragione lui, il premio è stato Real Madrid, vedi tu, Miche. Ma questo è il nostro calcio, anche se poi nel Real Madrid, con tutto il rispetto, non vanno mai bene gli allenatori, vedi, ma i gestori. Per cui Ancelotti, ma è un complimento nel dire che Ancelotti è un grande gestore, però meno allenatore, no, di altri, voglio dire, che hanno più nella tattica. Beh, Del Bosque, grande gestore, infatti lì ha fatto benissimo, altro grande gestore. Esatto, Real Madrid devi mettere una serie di giocatori a cui devi dare la tranquillità di dire fate come vi pare, ovviamente è un'iperbole, sì, chiaro, però chiaro. È un po' così. Allora Benitez con questa sua aria buonacciona, eccetera, però attenzione, perché Benitez poi dietro questa sua aria e questo suo atteggiamento a volte nasconde anche una bella presunzione, sì, certo, perché me lo sono studiato bene, certo, soprattutto in questi due anni di Napoli. Senti Michele, lo faccio anche a te la domanda: se ti dico Balotelli per la Lazio, cosa mi dici? Viene via niente, è una scommessa, allora, e lo so. È un giocatore... sì, per un fatto culturale. Perché voglio vedere come ce la mettiamo, no? Perché lì uso Totti, perché poi bisogna usare tutti i mezzi per andare avanti a livello un po' culturale, soprattutto a livello di lotta al razzismo. Cioè Balotelli, da una parte, a razzista, tra virgolette, viene voglia di fargli proprio l'uluato ideale, no? Perché lui a volte è anche un provocatore, cioè non è perché è nero e tutti i neri sono belli e bravi, perché altrimenti sarebbe razzismo anche questo. No, lui è un bel provocatore, spesso e volentieri, per cui non pare vero, no? A qualcuno che ha sempre osteggiato una cosa del genere poter urlare in faccia il proprio ululato a Balotelli. Però attenzione, perché Balotelli è considerato il nemico storico di Totti, che l'ho preso a calci, no? In una partita facendo 100 metri, e lì il laziale, quello profondo, va in crisi, perché se ce l'ha contro Balotelli va praticamente a favore di Totti, e quindi si crea una bella scintilla sana a livello culturale. Per cui, se mi fai la domanda, lo vorresti Balotelli a Lazio? Sì. Anche da un punto di vista tecnico, oltre per questi ragionamenti molto interessanti, sì. sì, perché comunque sia ci provo, perché il giocatore c'è. E quindi io allenatore ci proverei, mi piacerebbe molto. O meglio c'era. Ci provo. Meglio c'era. C'era, ma potenzialmente c'è sempre. Ma potenzialmente c'è giocatore. Poi la testa non è da giocatore, giocatore. Quella non si cambia, Michele Vlastino. Senti, se sa mai. C'è sempre un ultimo treno. Un'ultima battuta sul campionato al via. La Juventus è piuttosto nuova, forse un po' stanca, piena di infortunati. Sono solo pie illusioni per tutti gli altri? In parte per me sì. Anche cioè, per me la Juve è la Juve, in questi ultimi anni ha dimostrato di agire per il meglio. Non condivido soltanto i 300 tornei partite in preparazione scarsa, a cui è stata costretta da motivazioni commerciali, perché quello per me sono alla base anche degli infortuni, però la squadra è costruita bene, costruita anche in previsioni future, ha sostituito chi, vi sentivo proprio un giorno parlarne a lungo con Pardo in trasmissione, mi ricordo benissimo quello che voi dicevate, era comunque giunto il momento che certe cose bisognava farle, e la Juve l'aveva fatta comunque al meglio, anche nei campi, anche nei tempi, secondo me, anche nella tempistica, perché sì, ricordo perfettamente le vostre parole di quel giorno, perfettamente d'accordo con voi, era proprio nell'imminenza della campagna acquisti appena fatta, sono d'accordissimo. No, la Juve è la Juve, dai. Non facciamo troppo piacere. Sempre un piacere, Michele Plastino. Sempre piacere per me e per voi. Ciao, piacere per me. Ciao, grazie a voi. Allora, adesso borsa. Mentre vedevo prima sugli schermi la nuova maglietta di Jovetic, che ha preso il numero 10 all'Inter. Io penso come 0-0, perché noi adesso non siamo una squadra che ci mettiamo dietro e che difendiamo questo risultato di oggi. Il nostro tipo di gioco è sempre giocare avanti e cercare di fare gol. Quindi così penso anche che in Germania affrontiamo questa gara così. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. Allora, sui giornali di oggi, in tutte le radio, su tutti i TG, ovunque si legge di questo ingorgo sulla tratta Napoli-Milano, Milano-Napoli, ovviamente Milano sponda Inter. Da una parte Gulam, Strinic, Martens, Gabbiadini, Caleon, dall'altra D'Ambrosio, Santon, Juan Jesus, Hernanes e Ranocchia. Mischiateli come volete, poteva esserci, secondo tanti, qualche gigantesco scambio tra le due squadre. Non è vero. De Laurentiis. Posso garantire che con l'Inter non ci sarà nulla in uscita e nulla in entrata. non c'è nulla di vero, noi per il momento stiamo cercando di trattare soltanto le uscite che avevamo già premeditatamente ipotizzato, e quindi non ci sono assolutamente in uscita nessuno dei giocatori che fanno parte dell'attacco del Napoli. Per quanto riguarda l'Inter, no, io mi sono molto seccato anzi delle voci riguardanti Mertens attivate dal procuratore di Mertens. Difatti adesso vedremo come i miei avvocati potranno agire nei confronti di questo scellerato di procuratore che mette in giro queste voci. Scellerato addirittura. Allora, Raffaele Auriemma, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao a tutti quanti voi. Ciao. Gli crediamo? Crediamo a De Laurentiis? Sullo scellerato? No, non sullo scellerato, sul fatto che con l'Inter non si fanno affari, non si tratta, non ci si siede neanche, neanche per un caffè. Ma no, ma non ma si no. può credere, ma il mercato è fatto così, è fatto di tante bugie. Poi al 31 agosto staremo a vedere. Io anche ieri l'ho detto, l'ho scritto, che De Laurentiis, sentendo i dirigenti dell'Inter, aveva detto che non era interessato a nessun calciatore. Lo ha detto perché è seccato su questa volontà. In realtà sono due i calciatori che vorrebbe l'Inter dal Napoli: uno è Mertens, l'altro è Zuniga. Callejon non rientra nei piani di Mancini. Per cui al momento sì, c'è da credergli, perché è molto stizzito il presidente. Però fino alla fine del mercato, al 31 agosto, come fai a dire oggi non farò nessun affare appunto, con questa squadra? Appunto, mi sembra una preclusione inutile, cioè, sì. Anche perché tra D'Ambrosio, Santon, Juan Jesus, Hernanes e Ranocchia magari qualcuno a Napoli può interessare, chi? Io credo Juan Jesus e D'Ambrosio potrebbero essere i due profili utili, perché il Napoli sta cercando un centrale difensivo, un esterno e un centrocampista. L'idea di prendere Sala del Verona è ancora viva, perché consente al Napoli di avere un calciatore con due ruoli nel suo DNA, quello esterno e quello di centrocampista. Per il centrale, Juan Jesus, anche se De Laurentiis dice che il Napoli non farà affari con l'Inter, però se non prendi Maximovic, se consideri Oikonomu troppo rischioso metterlo nell'assetto tecnico-tattico di una squadra che comunque deve lottare per tornare in Champions, l'unico nome che resta è quello di Juan Jesus, a meno che poi non si vada a pescare all'estero. Sì, certo. Su Maximovic ha detto queste cose invece De Laurentiis, e su Cairo ha detto queste cose. Per quanto riguarda Cairo, che si ostina a dire che i suoi giocatori valgono un mondo e quando poi deve comprare però li valuta pochissimo, a me sta molto simpatico, perché ovviamente a Napoli si dice ogni scarafone è bello la mamma la sua, però voglio dire, c'è un limite a tutto. Maximovic non fa per il Napoli a quelle cifre là. E quindi non è l'unico, caro presidente, a farsi strapagare i giocatori, perché anche De Laurentiis in questo è bravissimo, non lo batte forse nessuno. Raffaele, non trovi che ci sia un overbooking nel settore esterni offensivi del Napoli? Io penso proprio di sì. Secondo me alla fine, anche se però contando i nomi, noi ci troviamo. Perché le coppie che ha formato Sarri in tutto l'organico, ma soprattutto in attacco, sono Insigne e El Kadouri, che sarà il suo vice, perché proprio oggi il direttore sportivo Giuntoli ha trovato un accordo con il manager di El Kadouri, Sandro Martone, per cui El Kadouri rinnova fino al 2019 e sarà il vice Insigne, perché è piaciuto molto a Sarri. Quindi Insigne ed El Kadouri, Higuain e Gabbiadini, Mertens e Callejon. Tanta roba. Ecco, è troppa roba, direi. Per cui ti viene l'idea di pensare a qualcuno che vada via, proprio perché è tantissima roba come nomi, non numericamente. Sì. Perché se va via uno di questi, il Napoli comunque dovrà prenderne un altro in alternativa. Certo, chiaro. E senza sottovalutare che fine settimana si parte, e delle prime cinque, quelle che indirizzano il campionato, prime cinque giornate, la fine della prima tranche di campionato, guardando al calendario, il Napoli ha qualche chance di mettere un'impronta, no? Raffaele? Sì, Sì, ma a prescindere dal calendario il Napoli deve metterla questa impronta, anche perché le avversarie si sono rinforzate, a dispetto della Juve che qualcosa in meno ce l'ha quest'anno, ma parte comunque in prima fila, immediatamente dopo c'è la Roma. Secondo me dietro la Roma ci sono pari merito l'Inter e il Napoli. Non credo tanto nell'Inter perché Mancini si è fatto comprare 11 calciatori da quando è arrivato. L'Inter ha speso circa 120 milioni di euro, di risultati non ne arrivano nemmeno nelle amichevoli. Da quello che mi risulta Mancini è già sotto osservazione, quindi l'Inter parte un gradino indietro. Ah sì. L'ultima cosa, pensa Benitez, che l'anno scorso chiedeva i giocatori, poi diceva non me li prendono, adesso li prendono senza chiedergli per 35 milioni Kovacic, che finirà in panchina a Real Madrid perché anche lì c'è un overbooking clamoroso in quel ruolo. Però lo stesso Benitez che ha detto: ma con la squadra che avevo a Napoli cosa potevo vincere di più? E Raffaele Auriemma risponde: a me fa piacere che tu mi stuzzichi sempre sull'argomento Rafa Benitez, anche perché, tante soddisfazioni sto ricevendo adesso dai tifosi, quelli lì intellettualmente onesti, sì, che capito, sono la stragrande maggioranza, capito, che mi dicono: avevi ragione tu su Rafa Benitez. Ora, purtroppo non c'ero io in conferenza stampa, altrimenti gli avrei risposto: d'accordo, la Juve era la più forte, però il Napoli quest'anno è finito al quinto posto, quindi se la Juve è la più forte possiamo dire che la Roma, la Fiorentina e la Lazio sarebbero state, ecco, erano più forti del Napoli, o il Napoli qualcosina ha sbagliato grazie a Rafa Benitez, compreso, ma non c'ero in conferenza compreso stampa. Un certo preliminare, non c'era in conferenza stampa, no? Ciao Raffaele. Compreso un certo preliminare. Certo. Ciao grazie. Carlo. Ciao Raffaele Auriemma, grazie buona sempre. Buona giornata, presto. Ciao, ciao. Ciao. Grazie, siamo a Libro Cuore, ogni tanto i giocatori ci regalano queste pagine. Napoli mille colore. Cara Napoli, è difficile, tanto difficile dopo 4 anni. E allora ho pensato che forse è meglio salutarti così, chiedendo in prestito prima a zio Pino e poi a te quello che la gente, la meravigliosa tua gente, ti canta ogni volta come una promessa di amore eterno. Firmato Goican Inner. Che in questi anni a Napoli ha giocato soltanto per amore e solo per amore. Adesso per amore e solo per amore andrà a giocare all'estero. Angelo da Sassari, buongiorno. Angelo, buongiorno. Buongiorno, rapito, ciao Carlo. Rapito da Napoli mille colori, di Goican Inner. Dica. Senti, io sono un tifoso juventino, ho chiamato per parlare della Lazio dicendoti che sarei felice se la Lazio passasse il turno, sì, perché è giusto che finalmente una squadra tedesca, una squadra inglese vadano a casa. Ma, sì, ma no, ma te ne abbiamo bisogno. Ma poi per la Juventus non è una questione di bandiera, di campanile come per i tifosi della Roma, sarebbe solo una questione economica, cioè vorrebbe dire avere una concorrente in meno nella spartizione della torta del grano, no? Quindi, certo. Però io penso che molti la pensino come te, come Federico da Alessandria, che scrive: io sono juventino, visto, questo lo contesto, Federico, visto il non uso che la dirigenza della Juve fa dei soldi di Champions, tanto vale dire forza Lazio. Beh, il non uso, mi sembra che la Juventus di Quattrini ne stia spendendo e non pochi. Proprio ieri è arrivato Alessandro, che è stato pagato molti soldi, 25, e non è l'unico, mi sembra che la Juventus di soldi di Quattrini della Champions li abbia spesi e come, no? Che dici? Sì, sì, non ne ha spesi tanti, e la dirigenza è ottima, soprattutto nel momento in cui acquista i giocatori a parametro zero, soprattutto i giocatori di alta qualità, e sicuramente i risultati gli stanno dando ragione, sia in campo nazionale che in campo internazionale, quindi tanto di cappello alla dirigenza della Juve. Cioè, sì, ma infatti a me sembra che, e non è finita qui, perché comunque si torna a parlare di altri acquisti, altri giocatori. Tra l'altro la Juventus ha avuto non poca sfiga in questo avvio di stagione, come sapete si è fatto male anche Marchisio e starà fuori una ventina di giorni. A centrocampo i giocatori sono contati, sono quasi tutti infortuni di tipo muscolare, e qui possiamo tirare in ballo la preparazione, possiamo tirare in ballo i viaggi transoceanici, le tournée, le coppe, le supercoppe giocate dall'altra parte del mondo, possiamo tirare in ballo molte cose, probabilmente tutte vere. Adesso Chiellini è rientrato in gruppo, si tratta di far fronte a quella che è a tutti gli effetti un'emergenza della Juve, però secondo me le emergenze con una rosa come quella della Juve non si affrontano comprando all'ultimo momento. La Juventus deve inserire un paio di ancora un giocatore quantomeno, il famoso trequartista, sta trattando i trequartisti di mezzo mondo, prima o poi qualcuno, io credo, arriverà. Tra l'altro oggi si dice, dimmi. Sì, no, c'è da dire che comunque ha disputato l'ultima partita della stagione e la prima di questa stagione, quindi comunque il tempo di vacanza non era troppo lungo rispetto alle altre squadre. È normale che abbia dovuto iniziare più tardi rispetto alle altre. Beh, quindi... sì, questo sì, questo certamente, però gli infortuni che ha avuto la Juventus in questo avvio di stagione sono stati tanti e, ripeto, quasi tutti di carattere muscolare, non traumatico. Angelo, grazie. Intanto c'è chi dice e scrive che c'è un riavvicinamento tra Juve e Schalke per Draxler, una trattativa infinita, va avanti da un sacco di tempo. Non so se sarà lui il trequartista, il nuovo trequartista della Juventus, ma qualcuno da quelle parti arriverà. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con Giovanni da Pisa. 800 24 00 24 per essere convocati. I procuratori devono stare cali e i giocatori altrettanto, devono capire e sapere che quando hanno firmato un contratto per 4 anni o per 5 anni, quello è, e spetta soltanto al club decidere se alienarlo prima della scadenza o meno. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, torniamo con altri convocati. Io stavo leggendo che è uscita la biografia dell'ex procuratore di vari giocatori, tra cui Henri Vieira, si chiama Roger, Marc Roger, racconta le solite cose su escort per gli arbitri, soldi a Moggi, sassate alle auto. Pesca nel torbido del calcio degli anni che furono, procuratore di Henri, Anelka, Blanc, Makelele, Vieira, eccetera eccetera, ma anche un passato da dirigente del Servette dopo questa covata di giocatori che lo portò fino al carcere per 18 mesi per una condanna per falso in bilancio. Date un'occhiata alla fotografia che compare di questo signore e poi ditevi voi qual è la credibilità. Sono favole da leggere per l'estate forse. Giovanni da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, sto sentendo la vostra trasmissione, sto viaggiando pochi minuti davvero. Niente, mi domando cosa c'è di sport nel calcio. Lo domando perché in un mondo dove girano centinaia di milioni di euro l'anno, di sport per me non è rimasto niente. Dove c'è molto razzismo, dove ci sono tre squadre soltanto, Juventus, Inter e Milan, poi ci sono tre squadre sotto, Roma, Lazio e Napoli, il resto non esiste, non si parla mai di squadre che portano i bilanci ben fatti. Faccio un esempio dell'Empoli, faccio un esempio, uno solo. Io sono un vecchio tifoso, veramente, perché sono vecchio anche di età, della Fiorentina, di cui non si parla mai di queste squadre, non esistono. Questi spogli retro non esiste, questa è il mito sui media, naturalmente dove si gestiscono, si vogliono far vedere le squadre, le partite, ma si spendono, si fanno pagare a coloro che le vogliono vedere centinaia di euro all'anno, perché tutto questo è un mondo che non esiste, non c'è più niente di sport, è un mondo corrotto, corruttibile, qualcuno doveva pagare contributi, non li paga più, li paga in 30 anni senza un aggravio di spesa, di nulla. Ma che mondo è questo qui? Mi chiedo, ma che mondo, ma di quale mondo state parlando voi? Di gente che va a fare cosa? Che va in giro a prendere in giro la gente? Allora, ma che mondo è? Non c'è più niente di sport, mi dispiace dirlo. Non c'è più niente di sport oggi nel mondo, non solo italiano, e nel mondo professionistico a questi livelli, perché questi discorsi possiamo attaccare poi a quelli che fa sempre Pardo, che non ho voglia di ripercorrere sui bacini d'utenza, sul perché si parla di questo, di quell'altro, eccetera eccetera eccetera, ma per fortuna la nostra trasmissione è fatta in modo in cui potete intervenire, quindi parlare di quello che vi pare, cioè di qualunque sport, di qualunque squadra, di qualunque livello. Ma al di là di questo, è il mondo del 2015, in cui lo sport è anche economia, lo sport è anche business, in cui lo sport in televisione si paga, ma questo non accade qui da noi, dove siamo tutti corrotti e corruttibili, accade in tutto il mondo e non solo nel mondo calcistico. Quindi possiamo rimanere legati ad un'idea di calcio, di sport, che però è finita una trentina d'anni fa, poi molte altre cose sono cambiate, sono intervenute. Nicola Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo intervenire su Balotelli, su questo fenomeno, su questo curioso fenomeno mediatico, sì. Mediatico, sì, perché proprio di calcio io non riesco, spiegatemelo, ma perché lo definite calciatore? Cioè, uno che fa due gol, tre gol, cioè ricordatemi, ma quanti gol ha fatto questi qui? Ma che cosa ha fatto per essere ricordato, come additato come campione o trattato come tale? Cioè, spiegatemelo voi, perché io sono un comune, come dire, fruitore del calcio che vede, e non riesco proprio, con tutta la buona volontà, con tutta la simpatia, con tutto quello che volete, però io non riesco proprio a capire questo calciatore, di che cosa stiamo parlando. Ma non perché mi interessi, per carità, ci mancherebbe altro. Ma Nicola, stiamo parlando di un ragazzo che è ancora giovane, ha 25 anni e ha indiscutibilmente un grande talento. Qualcosa ha fatto non certamente all'altezza del talento che possiede e che adesso sta facendo di tutto per buttare via. E quindi io sinceramente per lui e per il calcio italiano spero che riesca a trovare una dimensione. È chiaro che in questo momento è un fenomeno mediatico, che forse è sempre stato un fenomeno mediatico, questo non sono in grado di dirlo. Che è finito sulla copertina di Times, che certamente ha avuto un ritorno di immagine molto superiore rispetto a quanto ha fatto finora come calciatore, ma stiamo parlando di un ragazzo di grande talento e sarebbe bello rivederlo quel talento in campo. Basta guardare le quotazioni di mercato di Balotelli, quello che serve ora per prendere Balotelli in prestito, quel che volete, per prenderlo in affitto, come si diceva prima con Michele Plastino, per capire dal punto di vista calcistico in questo momento Balotelli dove stia, sugli ultimi gradini della scala. Guarda, oggi è uscito addirittura un sondaggio sul sito del Fatto Quotidiano sugli italiani più sopravvalutati, esclusi politici e giornalisti, mi pare, Claudio Schiattone, sì, esclusi politici e giornalisti, se no, vabbè, allora, lì pure Balotelli sarebbe finito in fondo alla classifica. Allora, il primo, inspiegabilmente, primo italiano più sopravvalutato, Jovanotti, ma perché? Perché Jovanotti? Il secondo, ovviamente, non poteva che essere Mario Balotelli. Marco, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Tifoso milanista, dopo anni e anni e anni, sono sinceramente contento. Non tanto per vabbè, adesso le potenzialità, il Mister B, eccetera, ma per la piega che nel giro di un mese ha preso. La difesa era il nostro punto debole. Adesso ci troviamo con una media di difesa di 22 anni. E io, senza contare Donnarumma, il portiere, perché sennò veramente si abbasserebbe ulteriormente. Grande fiducia a questo allenatore, che mi sembra veramente il primo azzeccato dopo qualcuno. A proposito, io mi ricollego, non glielo auguro, ma ho paura che questi infortuni mi comincino a ricordare qualcosa che nel bambino abbiamo passato per 3 anni. E non è colpa di Allegri, però sarà un caso. Io la Juventus non mi ricordo una fila così di infortuni muscolari da non so quanto. Sì, da un po' in effetti. Il Milan invece negli ultimi, nei suoi tre anni li abbiamo passati parecchi. L'ultimo appunto, quello che secondo me deve continuare, la fiducia data a Mialovic sembra essere ripagata. Confidiamo anche in quello che ha indirizzato lui. Prendiamo il suo giocatore che ha seguito per tanto la Sampdoria, Soriano. Bravissimo, lasciamo perdere Witzel perché anche lì. Sì, sì, ma io sono d'accordo, Marco, sono d'accordo con lei su questo. Cioè, secondo me Soriano sarebbe veramente un giocatore funzionale al Milan, che lei ha citato i problemi quasi, che erano quasi diventati cronici per la difesa. Io dico che il Milan l'anno scorso a centrocampo era davvero pochissima roba, quindi di un giocatore come Soriano, al di là del rapporto di fiducia che c'è con Mihajlovic, il Milan avrebbe bisogno, il Milan avrebbe certamente bisogno. Poi stiamo vedendo una squadra ora, è chiaro che se dovesse, come ha detto ancora ieri Berlusconi, arrivare il 31 di agosto Ibrahimovic, vedremmo una squadra totalmente diversa, perché conosciamo Ibrahimovic, da lì sarebbe un'altra storia, un altro film. Un altro aspetto importante secondo me è che stiamo ricominciando a vedere De Sciglio, giocatore che secondo me rappresenta davvero il futuro in quel ruolo del calcio italiano. L'avevamo perso di vista tra infortuni, panchina, malesseri, malumori, problemi, eccetera eccetera. In questo inizio di stagione stiamo ricominciando a vedere De Sciglio, e questa è una grande notizia non solo per il Milan, ripeto. Piero Augusto Stagi, buongiorno. Ciao capo, buon pomeriggio. Come stai? Pronto per la Vuelta? Bene, prontissimo. Con l'ultima grana di Caruso Paskowski, di padre polacco. Questo titolo di un ormai antico film di Francesco Nuti. Non è Caruso Paskowski di padre polacco, ma è Giampaolo Caruso, positivo all'EPO, di un campione prelevato nel 2012 e rianalizzato. Saranno in tanti. Sì, ormai andiamo a fare i controlli delle cantine, il sangue e urina, e poi andiamo a rianalizzare. Che brutta immagine che mi dai. sì, effettivamente lo ammetto, mi è venuta una brutta. Però senti, vabbè, è così. Senti, la Vuelta invece sarà divertente, sarà interessante. Ma spero. Intanto la Vuelta, la cosa che mi preoccupa è che sta negli ultimi tre anni, da quando, guarda caso, da quando il Giro di Spagna è diventato a tutti gli effetti di proprietà della ZOO, quindi dell'ente organizzatore del Tour de France, quindi targato tour a tutti gli effetti, guarda caso la partecipazione è semplicemente stellare. Sì, quest'anno manca solo Contador, che ha già fatto due grandi giri, ha corso il giro, l'ha vinto, alla volta al Tour è arrivato quinto, e logicamente il terzo grande giro non lo può fare, perché umanamente non si possono, non è fare, è inutile che ce lo raccontino, non si possono fare tutti e tre i giri da protagonisti nel 2015. Assolutamente, o tutti e tre, o tutti i corridori di grandi giri si mettono in testa di fare i tre grandi giri, allora si può, perché partono tutti con la stessa stanchezza. Okay. Se no, se invece tu ti prepari come ha fatto Froome solo per il Tour, adesso lui lo fa certo con la mano sinistra la Vuelta, e probabilmente lo farà con la mente sgombra ad ogni pensiero, perché lui la sua stagione l'ha già sistemata, e poi riuscirà anche a salire sul podio, meglio ancora passerà per eroe, però è un approccio mentale diverso. Farli tutti e tre per vincerli è dura, soprattutto contro gente che si prepara solo per uno o massimo due grandi giri. È come fare, parliamo di atletica leggera, parliamo di maratona, quanti atleti in un anno a fare due maratone? Due maratone è tanta roba. Impossibile. Tre grandi giri ti logorano a livello fisico, ma soprattutto non ci si pensa mai, soprattutto mentale, a livello di concentrazione, stress, tenuta, perché ci sono tante variabili. Tre grandi giri vuol dire 63 giorni di corsa, non sono pochi. Sono troppi. Pier, quindi, in 30 secondi, Aru o Nibali come protagonista italiano di questa Vuelta? Guarda, molto semplicemente l'Astana parte chiaramente con Aru capitano. Nibali è il grande regista, l'uomo libero, l'uomo che può condizionare e portarsi dietro corridori importanti per lasciare più leggero Aro. Quindi se tutto va come deve andare nei, diciamo, nei programmi dell'Astana, l'uomo di punta che si è preparato in questo mese e mezzo dopo il Giro d'Italia per la Vuelta è Fabio Aru. E Nibali farà di tutto per mettere una nuova firma, magari portare a casa una vittoria di tappa, fare una buona classifica, ma soprattutto fare il guastatore per, in funzione di una bella classifica. Logicamente, la bella classifica è la vittoria, sarebbe la prima grande vittoria. Numero 9 Aru, numero 10 Nibali, facciamo così. Assolutamente così. Ne parliamo regista presto. Nibali, regista Bomber Nibali, Aru. Bomber Aru. Ne parliamo presto, Pier Augusto Stagi. Vuelta che inizia sabato. Grazie a Claudia Schiattone, la nostra autrice, Giovanni Melchiorre in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti. Buon calcio anche a voi. Divertiamoci tutti quanti e ricordatevi che il calcio fa parte della nostra vita.